L'amore fra Russia e Italia in fatto di letteratura ha radici antiche. Gli intellettuali russi sono ancora oggi grati al nostro paese per aver pubblicato in anteprima mondiale, fu la Feltrinelli, il dottor Zivago di Pasternak nel 57, osteggiato dal regime comunista. Negli ultimi anni questo amore sta nuovamente crescendo, come conferma il direttore dell'Istituto di Cultura Italiana Mosca, Adriano Dell'Asta. Grandissimo interesse, come è dimostrato dal buon numero di traduzioni, dal loro livello e dall'accoglienza che normalmente hanno i nostri scrittori quando vengono qui a presentare le loro opere o comunque invitati in qualche maniera. Un grandissimo interesse nelle capitali che abbiamo visto in questi giorni con gli amici del Premio Strega, cioè Mosca e San Pietroburgo, ma grandissimo interesse anche nella cosiddetta provincia russa. Dalla Siberia al Caucaso, un po' dappertutto. Complessivamente fra il 2000 e il 2010 sono stati tradotti in russo 366 autori italiani. I più noti sono Pasolini e Moravia, fra i contemporanei Eco, Baricco e Magris. E a sancire questo legame Russia-Italia, da quest'anno l'Istituto Italiano di Cultura Mosca dà uno dei voti collettivi al Premio Strega. In questi giorni i finalisti del Premio Letterario sono stati ospitati a Mosca e San Pietroburgo con un'accoglienza calorosa da parte di italianisti e non. La mascotte della Cinquina, la giovane Lorenza Ghinelli, ha potuto anche toccare con mano la traduzione in russo appena uscita del suo primo romanzo, Il Divoratore, che l'anno scorso fu un caso editoriale. Segno che la Russia non guarda solo ai nomi noti, ma inizia a cercare anche le novità. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Pietroburgo.